Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Mangiamo nella sala da pranzo, oscurata anch'essa a protezione della calura, e trangugiamo un po' di nervosa allegria assieme alla birra ghiacciata. «Che ne sarà di noi questo pomeriggio?» esclamò Daisy. «E domani, e nei prossimi 30 anni?» «Non essere morbosa», disse Jordan, «la vita ricomincia sempre al primo fresco autunnale». «Ma fa un caldo tale», insisté Daisy sul punto di scoppiare in lacrime, «e tutto è così confuso. Andiamo in città». La sua voce lottava contro il caldo, martellandolo, cercando di dare una forma alla sua insensatezza. «Ho sentito di molte persone che hanno ricavato un garage da una stalla», stava dicendo Tom a Gatsby. «Ma io sono il primo ad avere ricavato una stalla da un garage». «Chi vuole andare in città?» domandò Daisy con insistenza. Gli occhi di Gatsby scivolarono verso di lei. Fece lei. «Hai un'aria così rilassata». I loro sguardi si incontrarono e cominciarono a fissarsi come fossero soli. Lei si impose di abbassare gli occhi sulla tavola. «Hai sempre un'aria così rilassata», ripeté. Gli aveva detto che l'amava, e Tom Buchanan vide tutto, restò sbalordito. Schiuse la bocca e guardò Gatsby, per poi tornare a fissare Daisy come avesse appena riconosciuto in lei una persona che non vedeva da moltissimo tempo. «Somiglia alla pubblicità di quell'uomo», proseguì lei, candida. «È presente la pubblicità di quell'uomo?» «E sia», si intromise subito Tom. «Mi va più che bene di andare in città. Su, andiamo tutti in città». Si alzò, i suoi occhi saettavano ancora tra Gatsby e la moglie, nessuno si mosse. «Che aspettate?» cominciava a perdere il controllo. «Qual è il problema adesso? Se vogliamo andare in città bisogna che ci muoviamo». Portò alle labbra i resti del suo bicchiere di birra con la mano che gli tremava per lo sforzo di mantenere la calma. La voce di Daisy ci indusse ad alzarci e guadagnare la ghiaia cocente del viale. «Partiamo subito», obiettò lei, «così, senza permettere a nessuno di fumarsi prima una sigaretta». «Distraiamoci un po', lo implorò. «Fa troppo caldo per farsi saltare i nervi». Lui non rispose. «Fa pure come ti pare», disse lei. «Andiamo, Jordan». Andarono di sopra per prepararsi, mentre noi uomini restammo a rimescolare con i piedi i ciottoli roventi. A occidente già si librava la curva argentata della luna. Gatsby fece per dire qualcosa, quindi cambiò idea, ma ormai Tom si era girato per fronteggiarlo con aria d'attesa. «Sono qui le vostre stalle?» domandò Gatsby con un certo sforzo. «A poco meno di mezzo chilometro». «Ah», una pausa. «Non capisco che bisogno c'è di andare in città», proruppe Tom infuriato. «Le donne hanno di quelle idee in testa». «Ci portiamo qualcosa da bere», gridò Daisy da una finestra del piano superiore. «Prendo del whisky», rispose Tom, entrò in casa. Gatsby si voltò nella mia direzione, irrigidito. «Non posso dire nulla a casa sua, vecchia Lenza. La voce di Daisy manca di tatto, osservai, è piena di...» Esitai. «La voce di Daisy è piena di soldi», disse lui improvviso. Era così. Non me ne ero mai reso conto prima. Era piena di soldi. In questo consisteva il fascino inesauribile del suo salire e scendere, del suo tintinnio, di quel picolare di cembali. Lassù, in un palazzo bianco, la figlia del re, la ragazza d'oro. Tom uscì a Daisy e Jordan con in testa un cappellino rivestito di un tessuto metallico e al braccio una mantellina leggera. «Andiamo tutti con la mia», propose Gatsby. Saggiò il calore sulla pelle verde del sedile. «Avrei dovuto lasciarla all'ombra». «Hai il cambio manuale?» domandò Tom. «Sì». «Beh, prendete la mia coupé e lasciate che guidi io la vostra auto». L'idea non fu per nulla gradita a Gatsby. «Credo non ci sia abbastanza benzina», obiettò. «Ce n'è fin troppa», disse Tom con esuberanza. Diede un'occhiata all'indicatore. «E se dovesse finire posso sempre fermarmi a un emporio. Oggigiorno vendono qualunque cosa negli empori». A questa osservazione l'apparenza priva di senso seguì il silenzio. Daisy guardò Tom accigliandosi, un'espressione indefinibile, del tutto insolita, ma comunque vagamente familiare, come se l'avessi soltanto udita descrivere a parole. Solcò il volto di Gatsby. «Vieni, Daisy», disse Tom, spingendola con la mano verso l'auto di Gatsby. «Ti porto io su questo carrozzone da circo». Aprì la portiera, ma lei si sottrasse al suo abbraccio. «Porta Nick e Jordan, noi ti seguiamo con la coupé». Si avvicinò a Gatsby, toccandogli la giacca con la mano. Io, Jordan e Tom salimmo sul sedile anteriore dell'auto di Gatsby. Tom ingranò con qualche incertezza il cambio a lui estraneo e schizzammo nel calore opprimente lasciandoci gli altri alle spalle. «Avevi visto?» domandò Tom. «Visto cosa?» Mi lanciò un'occhiata tagliente, rendendosi conto che io e Jordan sapevamo tutto da tempo. «Pensate che sia un idiota, per caso?» domandò. «Magari lo sono anche, ma ho come una specie di sesto senso a volte che mi dice cosa fare. Può darsi che voi non ci crediate, ma la scienza...» Si interruppe. L'urgenza del momento si impossessò di lui, lo tirò via dall'orlo di un abisso di sole teorie. «Ho fatto le mie piccole indagini su questo tipo», continuò. «Avrei potuto scavare ancora più a fondo se avessi saputo». «Vuoi dire che sei stato da un medium?» scherzò Jordan. «Cosa?» Disorientato ci fissò mentre ridevamo. «Un medium? Per Gatsby?» «Per Gatsby no, non sono stato da nessun medium. Ho detto che ho fatto delle piccole indagini sul suo passato». «E hai scoperto che ha studiato a Oxford?» suggerì Jordan. «Studiato a Oxford?» era incredulo. «Oxford un accidente, si veste di rosa». «Non di meno ha studiato a Oxford». «Oxford in New Mexico», sbuffò Tom sdegnato, «o un altro posto così». «Ascolta, Tom, se sei tanto snob, perché l'hai invitato a pranzo?» domandò Jordan, contrariata. «Lo ha invitato Daisy. Si sono conosciuti prima che ci sposassimo. Dio sa dove». Eravamo tutti irritabili per via della birra. E rendendocene conto, proseguimmo il viaggio restando in silenzio per un po'. Poi, quando gli occhi sbiaditi del dottor T.J. Eckleburg apparvero in fondo alla strada, mi ricordai dell'avvertimento di Gatsby riguardo la benzina. «Ne abbiamo a sufficienza per arrivare in città», disse Tom. «Ma c'è un garage proprio qui», obiettò Jordan. «Non intendo restare bloccata con questo caldo d'inferno». Spazientito, Tom tirò entrambi i freni e slittammo per poi arrestarci di colpo in una nube di polvere sotto l'insegna di Wilson. Un istante dopo, il proprietario emerse dall'interno dell'officina e fissò l'auto con sguardo perso. «Facci il pieno», gridò Tom rudemente. «Perché ci siamo fermati, secondo te, per ammirare il paesaggio?» «Sto male», disse Wilson senza muoversi. «È tutto il giorno che mi sento male». «Cos'hai? Sono sfinito». «Beh, posso fare da me?» domandò Tom. «Sembravi piuttosto in forma al telefono». Con un certo sforzo Wilson abbandonò l'ombra e il sostegno della porta e respirando a fatica svitò il tappo del serbatoio. Alla luce del sole il suo viso era verde. «Non volevo disturbarti a pranzo», disse, «ma ho un bisogno tremendo di soldi e mi chiedevo cosa pensavi di fare con la tua vecchia auto». «Che te ne pare di questa?» si informò Tom. «L'ho comprata la settimana scorsa». «Fa la sua figura, così gialla, poi...» disse Wilson mentre si affannava alla pompa. «Ti piacerebbe comprarla?» «Magari», sorrise Wilson debolmente. «No, ma potrei guadagnarci qualcosina con l'altra». «Come mai questa necessità improvvisa di denaro?» «È troppo tempo che sto qui, voglio andarmene. Io e mia moglie vogliamo trasferirci nell'Ovest». «Pure tua moglie», esclamò Tom, sorpreso. «Ne parla da 10 anni». Si riposò un istante contro la pompa, schermandosi gli occhi. «E adesso ci andrà, che lo voglia o no, la porterò via da qui». La coupé ci sfrecciò accanto insieme a una raffica di polvere e al fugace saluto di una mano. «Quanto ti devo?» chiese Tom in tono sbrigativo. «Mi si sono aperti gli occhi su qualcosa di strano negli ultimi giorni», osservò Wilson. «È per questo che voglio andarmene, è per questo che insisto tanto per l'auto. Quanto ti devo?» $1.20. Il caldo martellante e implacabile stava cominciando a confondermi, e passai un brutto momento prima di capire che Wilson non nutriva ancora sospetti su Tom. Aveva scoperto che Myrtle conduceva una sorta di seconda vita lontana dalla sua, e lo shock lo aveva distrutto fisicamente. Lo fissai, quindi spostai lo sguardo su Tom, che aveva fatto una scoperta analoga meno di un'ora prima, e mi venne da pensare che non c'era alcuna differenza tra gli uomini quanto a razza o intelligenza così profonda quanto la differenza tra lo star male e il benessere. Wilson stava così male da sembrare colpevole, macchiato di un torto imperdonabile, come se avesse appena messo incinta una povera ragazzina. «Ti lascerò l'auto», disse Tom, «te la faccio portare domani pomeriggio». Quella zona era sempre vagamente inquietante, persino nel bagliore accecante del pomeriggio. e adesso voltai il capo come mi avessero avvisato di qualcosa alle mie spalle. Sopra i cumuli di cenere, gli occhi giganteschi del dottor T.J. Eckleburg seguitavano la loro veglia, ma soltanto un attimo dopo mi accorsi che altri occhi ci stavano scrutando con un'intensità particolare a pochi metri di distanza. In una delle finestre sopra la rimessa, là dietro una tenda leggermente scostata, Myrtle Wilson sbirciava la nostra auto. Era così assorbita dalla scena che non si avvide di essere a sua volta osservata e una serie di emozioni presero forma sul suo viso come gli oggetti di una fotografia man mano che si sviluppa. La sua espressione era curiosamente familiare. Era un'espressione che avevo visto spesso sui volti delle donne, ma su quello di Myrtle Wilson sembrava insensata e inesplicabile, finché non compresi che i suoi occhi spalancati, carichi di un geloso terrore, non erano puntati su Tom, bensì su Jordan Baker, che lei aveva scambiato per la moglie. Di una mente semplice, e mentre ci allontanavamo in macchina Tom conobbe la sferza rovente del panico. Sua moglie e la sua amante, fino a un'ora prima punti di riferimento sicuri e inviolati, stavano d'improvviso sfuggendo al suo controllo. L'istinto lo indusse a premere sull'acceleratore con il doppio scopo di superare Daisy e lasciarsi Wilson alle spalle, e ci lanciammo verso Astoria a 80 km/h, finché nella ragnatela di travature della sopraelevata avvistammo la coupé blu che procedeva in tutta tranquillità. «Quei grandi cinema attorno alla 50ª strada sono freschi», suggerì Jordan. «Adoro New York nei pomeriggi d'estate, quando sono tutti via. Ha un qualcosa di sensuale, di sfatto, come se da un momento all'altro dovessero caderti in mano i frutti più strani». La parola sensuale sortì l'effetto di accrescere la tensione di Tom, ma prima che potesse sfogarsi in alcun modo, la coupé si fermò, e Daisy ci fece segno di affiancarli. «Dove andiamo?» urlò. «Che ne dite di un film? Fa così caldo», lamentò. «Andate voi, noi facciamo un giro e vi raggiungiamo dopo». Quindi si sforzò di essere spiritosa. «Ci vediamo a qualche angolo di strada, io sarò l'uomo che fuma 2 sigarette». «Non possiamo discutere qui», disse Tom spazientito, mentre un camion alle nostre spalle lanciava un suono di protesta. «Seguitemi fino al lato sud di Central Park, di fronte al Plaza». Girò la testa diverse volte per controllare se la loro auto era dietro la nostra. E quando il traffico li bloccava, lui rallentava finché non li vedeva ricomparire. Immagino avesse paura che si gettassero in una strada laterale sparendo per sempre dalla sua vita. Ma non lo fecero. E tutti insieme giungemmo alla più che inspiegabile decisione di prendere il salotto di una suite dell'Hotel Plaza.